L'indovina da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. La nominanza è spesso sulle dita del caso e vien dal caso anche la gloria. Di questa è l'antica storia di tutti i tempi, ove raggiri e cabale e pregiudizi reggono la vita. Non c'è rimedio, il meno è la giustizia a questo mondo e a guisa di torrente scorrono le cose irreparabilmente. Una donna faceva la pitonessa a Parigi e la gente, affascinata, correva per qualunque buccicata a consultar la sacerdotessa. Chi perdeva uno spillo o un amante, chi voleva sbrigarsi d'un eterno marito, una gelosa ed altre tante e tanti, o chi voleva strappare un terno. Andavan dalla celebre indovina a invocar le magiche parole ed essa, con un'arte sopraffina, di dire a ciaschedun ciò che gli vuole. Consegni indiavolati e petulanza, travestendo la zotica ignoranza, seppe alfine ottenere il gran miracolo di passar fra la gente per oracolo. Sebbene questo oracolo la bocca aprisse in cima a un povero solaio, pur attirava tanta gente sciocca che misurò i denari con lo staio. Il marito divenne cavaliere, si cangiò casa, si fe l'arte in grande, ma in mezzo ai candelabri e alle specchiere la maga barattò le noci in ghiande. Un'altra donna, intanto che innocente e di magia, venuta in quell'oscura soffitta, vede accorrere la gente a farsi dir la solita ventura. Donne, fanciulle e conti e servi e serve, era un continuo andare e ritornare. Invan la donna cerca protestare, ch'essa non fa la strega, a nulla serve. Ogni protesta è il dir di non volere. Bisogna profetar, fare gli incanti e pigliar più denari col mestiere che un avvocato non ne piglia tanti. Aiutava, dirò, la messa in scena un manico di scopa e quattro storte sedie e quell'ara di miseria piena che puzzava di sabato e di morte. L'altra donna ben presto vide il guaio di non aver salvata l'apparenza, la fede era rimasta sul solaio e l'insegna che fa la concorrenza. Fine della favola, l'indovina. Questa registrazione è di dominio pubblico.